Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno e bentornati su Mix24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica. Ma oggi torniamo nel 1997. Quell'anno la Juve festeggiava i suoi 100 anni, un secolo di Juventus, e io ne parlavo con l'avvocato Agnelli. Senta, la Juventus è stata la squadra, l'ha detto tante volte, lo sanno tutti, di suo nonno, di suo padre, sua, di suo fratello Umberto. Che cosa significa la Juventus per la famiglia Agnelli? Ma io direi che è soprattutto un affetto e una passione che continua, non c'è altro. Io vedo che molta gente compra delle squadre di calcio per farsi conoscere, altri sostengono una squadra di calcio per farsi perdonare qualche cosa. Io mi sono trovato la squadra di calcio e naturalmente ci ero affezionato e mi auguro che lo siano anche le generazioni future. Senta, ma non è che occuparsi della Juve per gli Agnelli è anche, oltre a questa passione, una specie di cursus honorum per allenarsi a esercitare il potere? In fondo dà molta visibilità. Quello devo dire la mia esperienza personale. Io me ne occupai immediatamente nel dopoguerra e allora la gente che si occupava della Fiat e che speravano che io me ne occupassi seriamente mi hanno fortemente e giustamente scoraggiato dall'occuparmi del calcio, perché non era, e come non credo sia nemmeno oggi, l'ambiente ideale per la formazione degli uomini che vanno verso il lavoro. Ma di calcio ne capisce di più lei oppure Berlusconi? Guardi, in Italia c'è 20 milioni di persone che dicono di capire di calcio. Tutti ritengono di capire di calcio più del commissario della nazionale. Io quando vedo qualcuno mi dice sempre quali consigli bisogna dare a Lippi. Quindi sapere che cosa una persona capisce di calcio è impossibile. Bisogna vedere se qualcuno sceglie le persone che sanno far funzionare il calcio. Senta, lei ha detto bisogna imparare a perdere. Senta, ma lei, avvocato, quando è che l'ha capito che bisogna imparare a perdere, a saper perdere? Ma io l'ho imparato presto nella vita, le dico la verità, l'ho imparato, se vogliamo, anche in parecchi anni in cui ho avuto la fortuna di fare il militare. Perché quando faceva il militare, dice? Beh, perché quando uno ha passeggiato dal fronte russo al Nord Africa e ha visto cosa può succedere nella vita, vede che si può anche perdere. Senta, avvocato, lei ha detto aspetto la terza stella, per quando la prevede? Una e fino all'altra, no? Beh, quando la prevedo. Bisogna sempre mirare lontano, bisogna sempre avere grosse ambizioni. Spero di avere il tempo di vederla. Insomma, certo che se riuscissimo a battere quel record del Torino e nostro, che sono i 5 campionati di fila, sarebbe la cosa che mi sta più a cuore. A quello le piacerebbe molto. Avvocato, ci siamo quasi, ma il 1997 tra storia e musica arriverà tra poco. Prima, come ogni venerdì, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Cravetto, sei contenta che c'era il tuo avvocato? Sì, sono felice. Tutte le volte che lo ascolto trovo un altro punto di contatto in più tra di noi. Ancora un sì, altro? Sì. Quale? Ma non l'hai sentito? Lui era un juventino quasi a sua insaputa. No, scusa, perché? Ma per tradizione, prima il nonno, poi il padre del nonno, poi il bisnonno. Insomma, lui è nato juventino. Un po' come me. Anche te. No. Sono esattamente identica, perché ora adesso tu mi chiederai quanti scudetti. Ma guarda, non te lo chiedo, ecco, però ma che juventina sei però? A mia insaputa. Ho capito, quindi sei molto molto trend, sei molto avanti. Perché sono juventina? No, perché sei a tua insaputa. Ah, certo. Va di modissima. Avrei notato che a mia insaputa è il nuovo leitmotiv. Va per la maggiore. Sì. Politica. Ho notato. Cronaca nera. E infatti noi abbiamo lanciato un piccolo sondaggio sulle nostre pagine Facebook e Twitter per scoprire qual è, secondo i nostri ascoltatori, il a mia insaputa più grande. Sì, in effetti ultimamente ce n'è parecchie. E ce n'è tanti. Quindi? Intanto ti vorrei far ricordare quello che ha riportato in auge l'insaputa, perché è stata lei. Come fa a dire ai romani che non sapeva niente della polizza? Perché non sapevo niente, mi hanno spiegato che queste polizze possono essere fatte tranquillamente senza informare il beneficiario. Ecco, la polizza... La tua raggi! La polizza assicurativa a sua insaputa. Però il primo, o comunque quello ancora prima della Raggi, è stato un altro, è stato Scaiola Lattico a sua insaputa. Anche lì era andata bene però, polizze, attici. Le case insapute comunque vanno moltissime, perché poi è arrivato il caso Fini con la casa Monte Carlo. Ecco, insaputo pure lui. Insaputo. Comunque, oltre le case, sì, io sempre il mio livello un pochino più basso, perché anche le relazioni e i matrimoni a propria insaputa vanno, ovvero? Tantissimo. Allora, l'ultima, la Lollobrigida, ha sì. 90 anni. Voglio dire, ha un'età, si è ritrovata sposata con il suo toy boy di 35 anni più giovane, a sua insaputa. Beh, però, non male, sì, non però male. Devo dire, lui bravo. Beh, lui bravissimo, però anche alla Lollobrigida complimenti. Però, Cravetto, al top dell'insaputa di questi giorni c'è lei. Se glielo dico io, non sono stata a letto con Giuseppe Guerinoni e neanche ho avuto una sveltina, scusate il termine, ma neanche sono andata in Camporella. Però allora come se lo spiega? Cioè, la scienza che ci dice che Giuseppe Guerinoni è il padre biologico di Massimo Giuseppe Bossetti. Se non ho avuto rapporti con Guerinoni, qualcosa il mio ginecologo forse può darsi che abbia fatto. Ma io non mi spiego, solamente che c'è la PMA assistita. È un liquido seminale che ti mettono, che ti inseriscono. Quindi lei sarebbe stata vittima inconsapevole di un'inseminazione artificiale. Sì, inconsapevole, io inconsapevole mio marito, perché a mio marito nessuno mi ha detto niente. Cioè l'unico consapevole chi era? No. Cioè lei, la madre di Bossetti, per difendere il figlio dice: ho avuto questo figlio perché durante una visita del ginecologo è successo. Hai capito? Perché... Hai capito bene? Sì, era così bene. Veramente? Sì. Comunque incinta a sua insaputa dopo una visitina dal ginecologo. Succede, quindi. Ci sta. E infatti con il 37% dei voti è lei la vincitrice del nostro sondaggio. Lo credo. Ci credi? Anch'io avrei votato lei. Però ti dico che in seconda posizione c'è Lattico di Scaiola. Sì. Poi Monte Carlo Fini e per l'ultima, infine, la polizza della Raggi. Quindi vorresti dirmi che la Raggi alla fine della fiera è la più credibile di tutti? È ancora lei. Vabbè. Ma a te è mai successo qualcosa a tua insaputa? Cravetto, continuamente. Chissà anche adesso, mentre parlo, quante insapute. Cosa ne succedono? Però le mie non sono così positive. No. A te, Cravetto? Ma neanche, perché voglio dire, polizza positiva. Positiva comunque. Attico? Positivo. Toy boy? Super positivo. Super positivo, vista anche l'età. L'unica cosa che mi sono successa a mia insaputa sono state o che mi hanno portato via la macchina o che mi hanno raddoppiato la bolletta. E ti voglio dire che ti è andata anche bene. C'è di peggio? Ci sono insapute molto peggiori. Pensaci. Qualcosa di troppo è una principessa ed è la protagonista del nuovo libro di Chiara Gamberale, una favola con le illustrazioni di Tuono Pettinato che ci porta nel regno modernissimo della ricerca ossessiva di riempire le nostre vite di cose e sul bisogno invece di fare pace con il niente. La principessa è speciale sin dalla nascita, il suo vagito è così forte che fa esplodere i lampadari. Insomma, lei è troppo, vuole troppo, lei sente troppo. Però dopo la morte di sua madre, improvvisamente non sente più niente e vaga per il regno cercando di riempire quel vuoto. Ed ecco l'incontro con il cavalier Niente, appunto, che passa il tempo a non fare qualcosa di importante. Insomma, lei sente troppo, lui non sente niente. Chiara Gamberale, sembrano perfetti, e invece? Invece, grazie Alessandra, buongiorno. Buongiorno. E invece forse lo sono perfetti. Sono perfetti per suggerirsi a vicenda la possibilità che per orientarci fra il vuoto che abbiamo dentro e il troppo che ci lusinga là fuori, si può essere semplicemente, meravigliosamente qualcosa. Però la principessa vorrebbe che diventassero amici, mentre lui non crede nell'amicizia e comunque un'amica ce l'ha già, ed è Madama Noia. Insomma, anche fare pace con il niente può diventare un vizio? Sì, certo, se ci ci si affoga dentro, certo, perché è l'incontro fra due dimensioni che abbiamo dentro, quello fra qualcosa di troppo e il cavalier niente, cioè fra la tentazione che abbiamo di fuggire da noi stessi e la tentazione altrettanto pericolosa che abbiamo di affondare dentro noi stessi, tant'è che i due si salvano a vicenda, perché in effetti sono due dimensioni che abbiamo dentro di noi e che se non si parlano siamo abbastanza messi nei guai. La tua principessa però, almeno all'inizio, non si rassegna e torna alla sua frenesia perché pensa di trovare la soluzione nell'amore. E invece cosa succede? La prima parte di questo romanzo è dedicata al dolore, muore la madre della principessa, e la seconda all'amore. Io credo che se noi giochiamo a nascondino con noi stessi, possiamo pure farlo, però poi ci sono, ecco, due eventi davanti ai quali non si può più giocare a nascondino. Uno è il dolore e l'altro è proprio l'amore. Sono due eventi che ci danno la grandissima opportunità, ma anche ci costringono a stare in contatto con noi stessi. E se il dolore smarrisce la principessa qualcosa di troppo e la porta a incontrare il cavalier niente, l'amore sembra darle una soluzione e in verità la porta ancora più lontana da se stessa. Perché? Perché lei non è ancora pronta a desiderare gli altri, ma ne ha bisogno, e questo è un rischio molto molto molto grosso. E infatti perché a un certo punto la principessa, che pensa di essersi innamorata, capisce, lo pensa cinque volte e a un certo punto capisce che non è lui l'oggetto del suo amore a mancarle, ma lei con lui. Si rende conto che in realtà non ricorda neanche il colore dei suoi occhi. Insomma, Chiara, ma qual è il confine tra l'amore e il bisogno, secondo te? No, sono proprio due mondi diversi, però spesso li confondiamo, perché lei ogni volta che urla a se stessa e al mondo è amore, questa volta mi sono innamorata, in verità non sta incontrando l'altro, ma sta utilizzando l'identità dell'altro per trovarsene una per lei. E io, a parte che diffido delle persone che hanno sempre bisogno di stare con qualcuno, io paradossalmente credo che proprio chi sa stare da solo poi sa stare con qualcuno. La tua principessa a un certo punto torna avanti e indietro, ritorna con il cavalier niente, però in realtà la risposta fino in fondo non è neanche lui. Non sarà che la principessa vuole tutto, sente tutto perché non sa cosa vuole? Ah beh, certo, infatti questo romanzo è proprio un romanzo di formazione sentimentale. Lei sbaglia, a un certo punto cade anche nei social network, sì. C'è una parodia abbastanza spietata. C'è Smorfia Libro. Lo Smorfia Libro. Nel regno, certo. Io metto in scena tutti i tranelli eterni dell'essere umano e contemporanei che ci presta questa bella società, tutti i tranelli con cui l'essere umano si illude di fare pace col vuoto che ha dentro e in verità aumenta solo la distanza da se stesso. Quindi certo il cavalier niente non è una soluzione, è un mezzo però per arrivare alla conoscenza di se stessa. Io, tutti i miei romanzi hanno come valore fondamentale quello di preservare la nostra originalità. Tutti i miei personaggi sono qualcosa di troppo. Chiara, ma tu hai imparato a fare pace con il vuoto e con il niente? Ma guarda, io ogni anno va meglio. Senza dubbio la scrittura aiuta, infatti è la mia grande forma di terapia. Io ho due vite. Una in cui vengo purtroppo risucchiata dalla frenesia, che anche è il periodo in cui promuovo i miei romanzi, lavoro, poi io proprio scappo 3 mesi l'anno e vado, proprio mi isolo nel vero senso della parola e vado a scrivere. Sarebbe bello però riuscire ad avere questo rapporto pacificato con lo spazio vuoto anche quando sono in mezzo alla società. È più difficile, anche perché, Alessandra, questo stare sempre connessi a qualcosa ma mai a qualcuno e soprattutto mai a noi stessi, no? Questa illusione di contatto continuo. Da ragazzini noi non eravamo così. Io passavo ore da sola ad aspettare che mia mamma e mio papà tornassero dal lavoro, stavo nella guardiola con il portiere, io uscivo alle 4:30 e mia mamma arrivava alle 6:00, e in quello spazio vuoto avevo paura, mi annoiavo, e attraverso questi sentimenti sgradevoli però conoscevo me stessa e ho maturato il sogno di diventare una scrittrice. Io non so se fossi stata bambina oggi, in questa società in cui i bambini fanno sempre qualcosa e a un certo punto poi a 12 anni tieni, ti do il cellulare, quindi comunque sono sempre, ecco, connessi a qualcosa tranne che anche i loro sentimenti e le loro emozioni più scomode, e mi fanno paura questi bambini che un giorno si innamoreranno, perché a quel punto, se non sei stato in contatto fino a quel momento, come insegna la principessa, qualcosa di troppo, poi rischi di essere molto pericoloso per gli altri. Chiara Gamberale, qualcosa, Longanesi. Quindi scusa, questa principessa della Gamberale, a suo modo, ama anche lei a sua insaputa. Brava, ma vedi? Perché non sai quanto è frequente. Però lo trovo molto romantico amare a tua insaputa, perché poi te ne accorgi dopo magari mesi e anni che tu quello lì lo amavi, ma in realtà non lo sapevi. Dopo mesi e anni lo amavi moltissimo. Moltissimo. Moltissimo, però c'è ancora peggio di amare a propria insaputa, ed è l'essere amati a propria insaputa. Cioè non me ne sono accorta. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Luca Cesaretti, ingegnere meccanico, 25 anni, ha fondato Ales Tech, la startup che sta rivoluzionando i trasporti su rotaia. State lavorando ad un treno del futuro che viaggerà come? Sarà un treno che viaggerà sospeso su un cuscino magnetico, quindi levitando e non toccando il binario. Quindi questa nuova tecnologia, che appunto si chiama Iron Lev, funziona come? Ma allora, questa tecnologia funziona andando a posizionare dei magneti, dei comuni magneti, che opportunamente predisposti e accoppiati con un comune binario in acciaio permettono di mantenere sollevato il pattino, e quindi facendo levitare il veicolo e sostenendo il carico. Facendo un esempio, una distanza come Roma-Milano potrà essere percorsa in quanto tempo? Ma se applicando tecnologia è possibile coprire una tratta Roma-Milano in appena 30 minuti. Voi avete lavorato anche a un altro progetto, sempre che riguarda il trasporto su rotaie, che si chiama Hyperloop. Ecco, di che cosa si tratta? Ma Hyperloop è un progetto che consiste in un'infrastruttura che è un tubo, all'interno del quale si ricrea un'atmosfera a bassissima pressione, quindi con aria rarefatta. All'interno di questo tubo vengono lanciate delle navicelle che, grazie ai bassissimi attriti, permettono di raggiungere velocità dell'ordine dei 1000-1200 km. Quindi queste navicelle, che sono questo Hyperloop, potrà viaggiare grazie alla tecnologia dei cuscinetti? Assolutamente sì. Aerolev è una tecnologia di levitazione magnetica trasversale che può essere applicata sia a comuni sistemi su rotaia come treni ad alta velocità o come per il trasporto urbano, ma anche al sistema Hyperloop, e quindi noi puntiamo proprio ad applicare Aerolev al sistema Hyperloop. Senti Luca, tu sei appena tornato dall'America, dove avete fatto qualche test, mi dici come sono andati? Ma allora, i test sono andati molto bene, abbiamo collaborato con alcuni dei team che hanno presentato i primi prototipi delle prime navicelle di Hyperloop. Mi racconti com'è stato fatto il test, cioè proprio praticamente? Ma allora, abbiamo testato il nostro sistema nel vuoto, ad aria rarefatta, e abbiamo testato anche su dei tracciati di prova, e poi alcuni dei team hanno anche testato le proprie navicelle all'interno di un tubo lungo un miglio, purtroppo per ragioni di sicurezza a velocità ridotte, però è stato per la prima volta, sono state lanciate tre navicelle all'interno del primo tubo di Hyperloop. A che velocità sono andate nei test, invece a quale velocità potrebbero arrivare su una distanza più lunga? Ma allora, in questi primi test le velocità sono state un po' più ridotte, sono raggiunte velocità di circa 90 km orari, potenzialmente potrebbero raggiungere velocità anche superiori a 300 km orari. E puntiamo entro l'anno a realizzare un prototipo in scala 1-1 di un intero veicolo, in modo da dimostrare e mostrare la nostra tecnologia. Quale futuro potrà essere in cui ci saranno i treni come Hyperloop? Cioè, quando sarà? È un futuro abbastanza prossimo. Già nei prossimi anni si parla, ad esempio, del mettere Hyperloop per una prima tratta che verrà montata per l'Expo 2020 di Dubai. Ma nel caso di Aerolev, la nostra tecnologia può essere facilmente integrata anche su binari preesistenti, e questo permette di accelerare questo processo. Quindi potrebbe essere applicata ad un Frecciarossa normale senza dover cambiare la tratta e i binari? Potenzialmente sì, con opportuni accorgimenti potenzialmente è possibile utilizzare anche un binario preesistente. Cravetto, quindi si potrà fare Roma-Milano in 30 minuti. Esatto, praticamente tu arriverai a Milano a tua insaputa. Ma è bellissimo, Cravetto! Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Fiori, ti devo leggere una lettera che a me come mamma mi ha toccato il cuore. Ah sì? Sì. È per me? No, non è no? Per allora non so se mi toccherà il cuore. CEO di Google, sì? E l'ha scritta una bambina di 7 anni. Dimmi. Questa lettera inizia così: caro boss di Google, mi chiamo Chloe e quando sarò grande voglio lavorare per voi. Beh, brava. Poi la lettera continua e dice: mi piacerebbe però anche forse aprire una fabbrica di cioccolato oppure gareggiare alle Olimpiadi come nuotatrice. Però comunque i computer mi piacciono tantissimo. Ha le idee un po' confuse, ma ne ha, però tante, ne ha tante. Ne ha tante, giustamente, e poi soprattutto è sveglia la sveglia. Ragazza. Tanto che il CEO di Google gli ha risposto. No. E sai cosa gli ha risposto? Dimmi. Cara Chloe, grazie per avermi iscritto, sono contenta che ti piacciono i computer e i robot e soprattutto aspetto il tuo curriculum quando avrai terminato la scuola. Beh, vabbè. Si è portata avanti. È questo. Stupendo, perché lei sveglia, ma lui ancora di più. Sei sempre cinica. E dai cinici ai cinemi. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Allora, io non mi vergogno di dire questa cosa che sto per dire, e infatti adesso la dico. Vediamo cosa, Donatella. Che questo film l'ho visto 2 volte, perché la prima volta non l'ho capito, e quindi siccome mi sembrava un bel film, sono rimasta seduta per capirlo. Hai capito? Ho capito, interessante. Di che film si tratta? Si chiama Moonlight, un film che ha vinto un sacco di premi, tipo Golden Globes, London Critics. Poi è anche candidato a un numero riguardevole di Oscar ed è stato anche alla festa del cinema di Roma, io c'ero, però non se lo sono filato tanto, diciamolo. Mi chiamo Chiron, ma tutti mi chiamano Piccolo. Vivi con tua madre? La odio. Tu non mi vuoi bene, ma un giorno capirai che io ti voglio bene. A un certo punto dovrai decidere da solo chi vuoi diventare. Non lasciare che qualcuno decida per te. Che fai? Cresci tu mio figlio adesso? Lo cresci tu? Glielo dirai perché quei ragazzi lo massacrano ogni volta. Hai problemi? No, sto bene. No, non stai bene. Lasciami stare. Aspetta, no, no, no, devi stare a sentire. Chi, ma? Te? Chi sei tu, Chiron? Per tanto tempo ho cercato di non pensarci. Gay, di colore, sì, nero. Sì. E non si trova molto bene in questa scuola, che è in un quartiere malfamato di Miami, dove un po' lo bullizzano. Nella seconda però lui scopre se stesso e diventa pure uno che c'è poco da bullizzarlo, perché è enorme e se ti dà un cazzotto ti sfonda. Nella terza poi c'è la sintesi degli altri 2 capitoli. Hai capito? Donatella, ho capito benissimo e non capisco, invece mi sembra molto chiara, non capisco cos'è che lei non aveva capito. Non avevo capito che si trattava della stessa persona. Certo, senta, e cosa l'ha colpita di questo film? Il fatto che questo film, che descrive il degrado della vita di questo poveretto, sì, c'è anche la madre drogata, però condanna anche il virilismo. Il? Il virilismo, quelli che devono essere maci e virili per forza e si pensano che se sei stronzo sei più uomo. Ho capito, Donatello, ho capito benissimo, in effetti è un grande problema, sì. Questo qui è prodotto da Brad Pitt e c'è questo attore molto bravo che sì, si chiama Alex Ibert. Sì, l'ho detto bene! Donatella, grazie, perché lei è stata molto, molto singolarmente chiara, diciamo. Grazie! Prego, però te lo dico, secondo me tu questo film non lo capisci. Schipani sulle note dei Backstreet Boys, perché tra poco andiamo nel 1997. Ciao Frankie. Ciao Frankie. Ciao Ale. Ciao. Senti, ma a te ti è mai successo qualcosa tu insaputa? Non te lo chiedo neanche. Io ho paura. Io ho molta paura della risposta. Una. Ce la racconti una. Ma 1979, sono a New York, ho affittato un enorme loft di 3716 metri quadrati. Una roba piccolina, più da te. Un'ex fabbrica, proprietario era uno scultore. Mi lascia questa casa, io ci vivo da solo, una cosa immensa. Ma sei megalomane, eh? Ma no, era una vecchia fabbrica, cioè era costava 300 al mese, quando gli affitti a New York costavano niente. E aveva doppia entrata più l'entrata di servizio per i suoi materiali, dato che lui era uno scultore. Ecco, io mi alzavo la mattina, aprivo il frigorifero e trovavo il latte. Dico, ma io non bevo latte, io sono allergico al latte. Soprattutto oppure, non l'ho comprato? No, ma cioè, non riuscivo a capire tante cose che sentivo per casa, sentivo odore di sigaro, io non fumo il sigaro. O trovavo la lavanderia fatta, ci sono i fantasmi in questa casa. E poi mi sono accorto che un manipolo di italiani che aveva avuto il mio indirizzo da un'amica di Bari erano a casa mia e vivevano lì. Erano dall'altra parte, non li ci vedevamo mai. Solo Franky. Va bene. Beato te. Veramente, Franco. Senti, ma sei pronto invece ad andare nel 1997? Ready to go, Alessandra. Ready to go. Allora dobbiamo salutare la nostra Ale Cravetto. Arrivederci. Ciao, Krav. Ciao, Krav. E noi andiamo nel 1997. Subito dopo la pubblicità. Quanti metri quadri avevi, Franco? 3716. Mannaggia tua.